Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte sesta. Le lezioni dei decreti delegati sono arrivate in un clima accesissimo. La mattina presto, come prestabilito, ci siamo trovati in un centinaio davanti ai cancelli della scuola. È domenica e c'è un sole tiepido. Tutti abbiamo giubbotti, scarpe, berretti di lana, guanti, bandiere. Siamo tutti intruppati, molto aggressivi. Formiamo una parata di presenza dura, agguerrita. Malva è incazzatissima, non è d'accordo, continua a ripeterlo, litiga con tutti. Dice che bisogna sbaraccare tutto quell'armamentario da sceneggiata militare, che dobbiamo puntare tutto sulla discussione e non sulla minaccia, ma nessuno le dà retta. E Scilla, che ha portato un mazzo di manici di piccone a cui sono legati degli straccetti rossi, le urla: «Vaffanculo, stronza, mettiti anche tu in lista e non rompere i coglioni». Il cancello viene aperto dai bidelli, vestiti in borghese e pagati con lo straordinario per quel lavoro festivo. Formiamo quattro cordoni che sbarrano l'entrata. Subito arrivano due volanti della polizia, due auto dei carabinieri e un cellulare della questura. C'è la solita autocivetta chiara della polizia che dà ordini con una riccia trasmittente. Dopo un po' un graduato si avvicina e chiede di lasciare aperto il passaggio, ma noi non ci muoviamo. Il clima è tesissimo. I poliziotti si schierano, formano anche loro un cordone, ma non hanno manganelli né caschi né scudi. Non hanno in mano niente. Sono un po' intimoriti dalle nostre bandiere. I carabinieri stanno in disparte a guardare, i poliziotti hanno formato un cordone e avanzano serrati verso di noi e arrivano quasi a toccarci. Ci insultiamo guardandoci negli occhi e cominciamo a spingerci corpo contro corpo. Per il momento non ci spingiamo con le mani, premiamo solo coi corpi, contro i corpi degli altri. Noi teniamo davanti al nostro cordone le aste delle bandiere orizzontali e spingiamo con le aste per non fare avanzare i poliziotti. Allora i poliziotti prendono in mano anche loro le bandiere e le spingono contro di noi. Si spinge da tutte e due le parti. La linea orizzontale delle bandiere fa da divisione fra i nostri corpi e i loro. Sembra un gioco, un tiro alla fune rovesciato. E c'è anche chi si diverte con quel gioco, che continua per un bel po'. Mentre spingiamo, noi gridiamo «Oh, oh, oh!». I poliziotti invece spingono senza dire niente. La massa ondeggia avanti e indietro. Uno schieramento perde un metro, ma poi lo riconquista. E così passa qualche minuto. Io sono proprio in mezzo e mi sento schiacciato come una sardina, pressato da tutte le parti, accaldato. Mi sembra di soffocare. Poi alla fine riusciamo a buttarli indietro, noi perché siamo più numerosi e c'è anche un sacco di gente che spinge da dietro. L'ultima spinta che diamo è violentissima, i cordoni dei poliziotti non riescono a bloccarla, qualche poliziotto finisce a terra, gambe per aria, e si rialza in fretta raccogliendo il cappello e bestemmiando di rabbia, e così riusciamo a occupare completamente lo spazio davanti al cancello. Viene avanti di nuovo lo stesso graduato di prima e comincia una trattativa. Lui dice che a loro interessa soltanto lasciare aperta l'entrata, che loro sono lì per garantire questo, che possa entrare e uscire liberamente, e che se non la smettiamo prendono i manganelli e ci caricano. Allora Canforo fa da mediatore e si arriva all'accordo di schierarsi lateralmente, lasciando libera l'entrata, perché noi non siamo lì per impedire alla gente di entrare a votare, ma per discutere con loro. Ma in realtà non si discute un cazzo, Alcuni gruppetti di studenti che arrivano lì per votare vedono la situazione e fanno dietro front, ma la stragrande maggioranza non si presenta neanche. Solo alcuni genitori restano lì, smarriti, non capiscono niente, ma c'è troppa tensione per discutere, non c'è neanche la voglia da parte nostra. La nostra attenzione è ormai tutta per i poliziotti. Sentiamo che lo scontro è con loro, che intanto hanno riformato il loro cordone. Hanno formato un cordone parallelo al nostro che lascia libero un corridoio largo un paio di metri e lungo una decina di metri che arriva fino al cancello. Finalmente ci sono un paio di genitori coraggiosi, certamente comunisti, camminano nel corridoio lasciato libero davanti all'entrata. E allora subito noi avanziamo, tutti insieme, di colpo, e immediatamente avanza anche il cordone dei poliziotti. E così ci ritroviamo nella situazione di prima, faccia a faccia, con i genitori presi in mezzo come un sandwich, di fianco a me c'è Scilla. Ci teniamo sotto braccio, sento il suo braccio teso che si stringe al mio. Poi improvvisamente il braccio di Scilla si divincola rapidissimo dal mio e di colpo vedo il sangue che scende dal naso del poliziotto che gli era di fronte. È stato un attimo, nessuno ha visto il suo pugno scattare, che ora è di nuovo sotto il mio braccio. Il poliziotto apre le braccia molli e si lascia andare indietro, con il cappello che gli scende sulla faccia. Intanto i due schieramenti si sono di nuovo staccati e sono tornati ognuno sulla linea di partenza. Il poliziotto a terra viene portato via e si capisce bene che cosa gli è successo. Dopo un po' arriva un gruppetto di cattolici e si ferma a qualche metro di distanza, parlottando un po' fra loro e poi in fila vengono avanti imboccando il corridoio. Riparte il gioco degli schieramenti, tutti ci buttiamo di nuovo in avanti e il gruppetto degli aspiranti delegati torna indietro precipitosamente, dopo aver ricevuto qualche spintone e qualche sputo. Poco dopo arriva il primo della classe, che è della FIGC. Arriva accompagnato da una decina di altri ragazzotti ben vestiti e dalla faccia pulita, come la sua, evidentemente tutti militanti della sua organizzazione fantasma. Si preoccupano per un po' di fermare i pochi studenti che arrivano e di convincerli a restare lì, poi parlottano con i poliziotti, parlottano con il gruppetto dei cattolici. Valeriana per prima urla: "Eccolo lì, il compromesso storico." Poi partono gli slogan: "Uniti, sì, ma contro la DC." I poliziotti partono di sorpresa e di slancio, guadagnano qualche metro. I cordoni dei due schieramenti si sfilacciano nella confusione, partono i calci e cazzotti da tutte e due le parti. Un po' di studenti riescono a entrare, approfittando della confusione. Quasi tutti si prendono qualche botta. A Cocco strappano la fodera color cardinale del suo pastrano, a Gelso spaccano un mignolo, a me arriva un colpo sul braccio, sento un dolore lancinante, mi guardo in giro, ma c'è una tale confusione che non capisco chi me l'ha dato. I poliziotti sono incazzati perché noi abbiamo le bandiere e capiscono che cominceremo a usarle. Intanto arrivano a frotte i militanti del PC. Sono sempre più numerosi e si mettono dietro ai poliziotti e li incitano a spazzarci via. Uno del PC, alto e grosso, dalla faccia prepotente, si va avanti e prende Pepe per il bavero e gli grida fascista. Pepe si divincola e riesce a tirargli un calcio negli stinchi, un calcio durissimo con la punta del suo anfibio, roba da spaccargli la gamba. Ma quello non fa una mossa e non molla il suo collo. Allora Ortica, che è lì di fianco, alza la bandiera e la cala con due mani sul braccio del bestione. Un urlo di dolore e quello lascia la presa. È il caos, botte da orbi da tutte le parti. Ormai è un corpo a corpo. Le bandiere saettano l'aria. Urla, bestemmie, insulti. Sento qualcuno che mi prende per i capelli, ma poi mi molla subito. Vedo Scilla che tira colpi da forsennato usando la bandiera come una clava contro i poliziotti che cercano di raccogliere le bandiere cadute per terra per usarle anche loro. Arrivano delle ambulanze con le sirene. La zuffa smette quasi di colpo e ci si divide nei due schieramenti, ritornando alle posizioni iniziali. Improvvisamente sento gridare che hanno preso Canforo. Faccio in tempo a vedere Canforo tenuto per le braccia, che viene spinto da quattro poliziotti sul cellulare. Ci precipitiamo tutti sul cellulare e lo circondiamo. Altre spinte, altri cazzotti, coi poliziotti, ma il cellulare non può partire perché schiaccerebbe qualcuno. Allora noi cominciamo a scuotere il cellulare e sbalzettarlo, spingendo tutti insieme. A quel punto i poliziotti promettono il rilascio di Canforo in cambio della consegna delle bandiere. Noi accettiamo, lasciamo lì i bastoni per terra e Canforo viene fatto scendere dal cellulare. È mezzogiorno, siamo lì da 4 ore. I seggi chiudono la sera e noi non vogliamo andarcene, ma non si può andare avanti a botte fino a sera. Decidiamo così di fare uno schieramento ridotto fino a dopo pranzo. Tanto ormai il nostro obiettivo è stato raggiunto. L'affluenza alle urne è stata quasi nulla. Decidiamo di dare una tregua ai poliziotti e io accompagno Canforo a parlare col graduato che è lì dall'altra parte della strada, appoggiato a una volante, e discute con uno in civile con un impermeabile doppio petto color crema. La tensione si è allentata del tutto. Qualcuno si siede sul marciapiede a mangiare i panini. Un poliziotto giovane si toglie di tasca la radiolina per ascoltare la partita e ci dice: «Ma che fate? È domenica, perché non andate nei prati con qualche ragazza invece di stare qui a fare tutto questo casino?» La volta che mi hanno arrestato eravamo appena arrivati col treno dal paese. Camminavo con China e con altri due compagni per la strada dalla stazione verso la sede. C'era la riunione alla sede per la radio che stavamo mettendo su. La stavano mettendo su Gelso e Ortica e doveva trasmettere in tutta la provincia. Passa via un'auto civetta della questura, sputtanatissima, che negli ultimi tempi vedevamo spesso ferma davanti alla sede, ma non ci badiamo neanche. Tanto stanno controllando come al solito, pensiamo, ma poi quelli si fermano di colpo, proprio di fianco al marciapiede, qualche metro davanti a noi. Si fermano di colpo e subito scendono in fretta, con le pistole in mano, e vengono verso di noi. A me la cosa mi sorprende, perché questi ci conoscono benissimo, e non era il caso di fare tutta quella sceneggiata per chiederci i documenti, come era già successo ormai un sacco di volte. I tre in civile non badano molto ai compagni che sono con me, ma mi circondano, mi puntano le pistole addosso e mi dicono di stare fermo, mi gridano. E chi si muove, dico io? Questi si avvicinano e uno mette al muro i compagni e anche China, con le mani alzate, poi li fruga un po', ma senza convinzione. Gli altri invece mi prendono per le braccia e mi spingono verso la macchina, mi spingono dentro la macchina e mi ritrovo schiacciato tra due con le pistole in mano che me le appoggiavano ai fianchi. Erano piuttosto agitati e non dicevano una parola, e allora anch'io non dico una parola. Riesco solo, girando un po' la testa, a vedere China sul marciapiedi che correva verso la macchina che in quel momento parte di colpo. Tutto questo è avvenuto tutto velocissimo. Quello che era rimasto giù quando ha visto che ero entrato nella macchina ha mollato i compagni che teneva contro il muro con la pistola, è corso alla macchina, è salito davanti e è partito sgommando a zigzag. Poi ha guardato dietro nello specchietto e ha detto: «L'avete perquisito?» «No», fa quello alla mia sinistra, sempre spingendomi la pistola fra le costole. Quello che guida si incazza: «Ma come non l'avete perquisito? Ma siete fessi? Dovevate perquisirlo!» E frena e fa per accostare al marciapiede, ma sempre quello alla mia sinistra dice: «Non fermarti adesso!» Quello che guida riprende velocità e dice: «Ma almeno mettetegli le manette!» E poi mi chiede, minaccioso: «Sei armato?» «No», dico io. Quello a destra tira fuori le manette e quello che guida gli dice: «Mettigliele dietro allora». Quello alla mia sinistra mi prende con una mano per i capelli e mi dice: «Avanti, metti le mani dietro». Io ubbidisco, mi muovo molto lentamente perché mi sento premere la canna della pistola sul fianco. Quello a sinistra mi tira ancora i capelli finché appoggio la faccia contro il sedile davanti, mentre l'altro mi mette le manette intorno ai polsi, ma ci mette un po' a metterle perché c'è poco spazio e così finalmente mi trovo ammanettato. Quello a sinistra mi lascia i capelli. Adesso sono ammanettato e scomodissimo per via delle braccia dietro la schiena. E i due di fianco che mi premono sempre le pistole tra le costole, ma preferisco stare zitto e non chiedere niente. La strada che porta alla questura è corta, però faccio in tempo a pensare a mille cose. Penso che questi stanno facendo una cosa dura, di intimidazione. Non capisco per quale motivo, ma è certo che stanno facendo una cosa dura. E visto come vanno queste cose, appena arrivati in questura mi riempiono di botte. E penso che sono ammanettato e che così è facile picchiarmi, senza che possa nemmeno difendermi. E così mi salta addosso la paura delle botte. Non riesco neanche più a pensare per quale motivo possono avermi fermato. Penso solo alle botte che mi daranno. E arrivati davanti all'entrata principale mi fanno scendere a spintoni, sempre con le pistole in mano. Mi spingono su per le scale, continuando a spingermi anche se non c'è bisogno, mi spingono se salgo piano e se accelero mi dicono dove vai e mi tirano indietro per le manette. Insomma, facciamo due piani così, sempre con questi che mi spingono e mi tirano. Poi questi mi fanno entrare in una stanza e mi fanno sedere su una sedia. Io nell'attimo in cui mi siedo, sempre con le manette dietro, penso adesso cominciano. Ecco, e invece quello che mi aveva messo le manette tira fuori di tasca una chiavetta minuscola e me le toglie. Io ho tirato un sospiro di sollievo perché ho pensato che se mi dovevano picchiare era facile farlo quando ero ammanettato. Mi frego un po' i polsi che sono rossi e mi fanno male. Poi quello che guidava mi fa deciso: spogliati, dai, in fretta. Io non faccio obiezioni. Mi tolgo il giubbotto, la sciarpa, poi mi tolgo il maglione, la camicia e la maglietta. Dai, su in fretta, anche i pantaloni. Mi tolgo le scarpe, mi sfilo i pantaloni e poi li guardo. Ma sempre quello riattacca da incazzato. Ho detto tutto, ti devi mettere nudo. Tutto, hai capito? E mi dà un colpetto sulla spalla con la punta delle dita tese e con una faccia sprezzante. Vedo questa sua espressione sprezzante e mi viene naturale fissarlo in faccia. E gli vedo questa espressione sprezzante negli occhi e sento salirmi una vampata d'odio, di rabbia. Tu sei una carogna, gli dico con gli occhi. Non ho il coraggio di dirglielo, perché lo vedo lì tutto teso, pronto a partire con una botta, se faccio la minima reazione. E così mi tolgo le calze e le mutande e resto lì, nudo, ho freddo, ma non mi muovo. È come una rivelazione per me e penso: sono proprio così, sono proprio fatti così, ma perché mi stupisco? Quante volte ce lo siamo detto che sono così? I tre si mettono a frugare i vestiti, rivoltano le tasche del giubbotto, le tasche dei pantaloni, rovesciano fuori tutto quello che c'è dentro sul tavolo, poi prendono tra le dita una per una tutte queste cose, che sono le solite cose, le sigarette, l'accendino, le monete, foglietti di carta, le chiavi, le solite cose che ci sono sempre nelle tasche. Le guardano, le riguardano, se le fanno passare da una mano all'altra, due o tre volte, le girano e sentono tra le dita, poi se le passano tra di loro. L'accendino, le chiavi, i foglietti di carta, li leggono attentamente, li guardano contro l'uscio, li riappoggiano delicatamente, poi tolgono le sigarette dal pacchetto, tolgono anche la stagnola, la osservano attentamente da una parte e dall'altra. Ma cosa stanno cercando, mi chiedo, cosa pensano di trovare? Poi fanno passare i vestiti, tastano il collo del giubbotto, le cuciture, strappano la fodera e ci passano dentro la mano. A turno tastano il collo della camicia, la rivoltano, controllano le cuciture, rovesciano i pantaloni e il maglione, controllano ogni centimetro, sempre con lo stesso ritmo, calmo. Si vede che sono per loro gesti abituali, meccanici. Poi prendono in mano le mutande, le tastano bene, anche quelle. Poi Tocca alle scarpe, ci infilano la mano, sollevano la linguetta, le mettono sotto la luce per guardare dentro di sbieco, controllano la suola, la piegano in due e poi la buttano per terra, la sciarpa rossa e i calzini, sempre con le mani nervose. Li tirano su, li tastano, li girano e li rigirano, 3, 4 volte, se li passano di mano. Poi, quando hanno finito, uno esce dalla stanza. Raccolgo la mia roba sparsa in giro per terra. Faccio le cose lentamente. Continuo a non capire dove vogliono arrivare. Penso che adesso potrebbero anche dirmi qualcosa, però io evito di fare domande. Finisco di rivestirmi lentamente e poi mi siedo su una sedia. Guardo fuori dalla finestra, anche se non c'era niente da guardare. Eravamo al secondo piano e c'era solo il cielo grigio fuori. Dalla finestra. Guardavo fuori nel cielo grigio per non guardare quelli che anche loro adesso sembravano rilassati e non badavano più molto a me. Si era seduto sulla scrivania e faceva andare avanti e indietro le gambe, penzoloni, mentre con la mano giocherellava con gli oggetti che erano nelle mie tasche e che adesso formavano un mucchietto sulla scrivania. La carogna ce l'avevo dietro le spalle, non lo vedevo. Ma ero sicuro che aveva fatto apposta a mettersi lì per darmi in sicurezza, perché potevo pensare ogni momento che stava per arrivarmi una botta. Finché, dopo qualche minuto, quello che era uscito riappare e gli chiedono se è arrivato il capo. Ma guarda, penso io, lo chiamano davvero il capo. E quello risponde: adesso arriva, io lo so chi è il capo. L'ho già visto tutte le volte che abbiamo fatto una manifestazione. Era sempre lì, col suo impermeabile doppio petto, color crema, dietro al finestrino di una macchina civile, con l'arice trasmittente davanti alla bocca, a dare ordine ai suoi ragazzi. Perché lui li chiama proprio così, i miei ragazzi, e loro lo chiamano il capo. Che tipi sono questi sbirri? Si comportano e parlano veramente come gli sbirri che si vedono nei film. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che io so ha ridotto già Libri ribelli.